I primi anni, 1786-1793. Benedetto Labre in casa di Pietro Vianney. Pietro Vianney, sposo di Maria Sciaravai, abitava a Dardigli, villaggio posto sulle alture confinanti con Lione. Agricoltore e buon cristiano, volentieri accoglieva gli infelici che bussavano alla sua porta. Nel luglio 1770 la fama della sua carità gli condusse alla porta di casa un mendicante, che era un santo. Benedetto Labre, ammalato di scrupoli, aveva appena lasciato la trappa di Sept-Fond, dove aveva cominciato il suo noviziato col nome di Fratello Urbano. Deciso ormai nella sua vocazione di pellegrino perpetuo, prese la via di Roma, fermandosi dapprima a Paray-le-Monial per una lunga visita alla Cappella delle Apparizioni. Da Paray-le-Monial andò verso Lione, ma invece di entrare nella città, a cui era già vicino, preferì passare la notte nel villaggio di Dardigli. Vide dei poveri che si dirigevano verso la casa di Pietro Vianney e si unì ad essi. Benedetto Labre indossava allora una strana divisa, la veste dei novizi a lui lasciata quando uscì dal convento. Dalle spalle gli pendeva una bisaccia, attorno al collo aveva un rosario e sul petto gli brillava un crocifisso di ottone. Tutto il suo bagaglio era costituito da un breviario, una imitazione ed una copia dei Vangeli. Vestito in questo strano modo, entrò nel modesto recinto che c'era davanti alla casa dei Vianney ed il padrone l'accolse amorevolmente come accoglieva tutti i poveri. I figli guardavano con compassione quel diseredato dalla fortuna, nel quale il padre e la madre avevano insegnato a vedere Gesù Cristo stesso. Anche Matteo, uno dei cinque figli, era presente e, senza pensare che sarebbe stato il padre di un altro santo, contemplava quel giovane mendicante dal viso pallido e dolce che seguitava a stringere tra le dita la corona del rosario. Nella spaziosa cucina vicino al focolare, dove 16 anni più tardi il fanciullo predestinato avrebbe riscaldato i suoi piccoli piedi nudi, Benedetto Labre e i suoi compagni si sedettero davanti alla scodella di zuppa fumante insieme ai Vianney. Dopo la zuppa fu servito del lardo con legumi. Recitate la preghiera di ringraziamento e l'orazione della sera, gli ospiti di passaggio ebbero per il loro riposo un buon strato di paglia sopra il forno casalingo. Il mattino seguente, quando se ne partirono, ringraziarono tutti, ed anche quel giovane di circa 20 anni, dai lineamenti delicati e dal tratto squisito che non sembrava un mendicante comune, volle esprimere la sua gratitudine in termini che tradivano la sua educazione e la sua profonda pietà. Ma quale non fu la sorpresa di Pietro Vianney quando ricevettero una lettera dal povero mendicante? Siccome Benedetto Labre scriveva molto di rado, avendo scritto, bisogna pensare che l'ospitalità di Dardigli gli avesse fatto singolare impressione, o forse anche, illuminato da Dio, aveva avuto il presentimento del figlio di benedizione che avrebbe reso quella casa illustre per sempre. Nascita di Giovanni Maria. 8 anni dopo, l'11 febbraio 1778, a Decugli, villaggio lontano da Dardigli una lega appena, Matteo Vianney sposava Maria Belus. Era un buon cristiano e la sua giovane sposa gli portava come dote migliore una fede attiva ed illuminata. La loro unione fu da Dio benedetta. Ne nacquero 6 figli che, secondo la commovente pratica di quei tempi, furono consacrati alla Santa Vergine ancora prima della loro nascita. Caterina, che passata a nozze in giovane età, morì santamente poco dopo il matrimonio. Giovanna Maria, che lasciò la terra per il cielo a 5 anni circa. Francesco, il futuro erede della casa paterna. Giovanni Maria, che un giorno non sarà quasi più conosciuto se non col nome di curato d'Ars. Margherita, che sola fra tutti sopravviverà di molto al suo santo fratello. E infine un altro Francesco, detto Cadet, che entrato nella milizia lascerà Dardigli per non più ritornarvi. Giovanni Maria Vianney nacque verso la mezzanotte del giorno 8 maggio 1786 e fu battezzato il giorno stesso. ebbe come padrino e madrina uno zio e una zia, e precisamente Giovanni Maria Vianney, fratello minore di suo padre, e sua moglie Francesca Martinon. Il padrino fu contento di trasmettere al figlioccio i suoi nomi. Sulle ginocchia di una madre cristiana. Appena questo figlio prediletto cominciò ad osservare gli oggetti esterni, la pia madre fu lieta di indicargli il crocifisso e le immagini religiose che ornavano le pareti della casa. E quando le piccole braccia poterono appena muoversi fuori dalle fasce, cominciò a guidare la manina incerta dalla fronte al petto e dal petto alle spalle. Il bambino ne prese presto l'abitudine. Un giorno, non aveva allora che 15 mesi, la madre si era dimenticata di aiutarlo a fare il segno della croce prima di dargli la minestra, e l'innocente fanciullo rifiutò di aprire le labbra, ripetendo a più riprese un gesto negativo col capo. Maria Vianney indovinò il desiderio del bambino, il quale aprì le labbra dopo che fu aiutato a fare il segno della croce. Si dovrà ammettere che fin dalla culla Giovanni Maria Vianney diede dei segni non dubbi della sua futura santità, come fecero San Raimondo Nonnato, San Gaetano, Sant'Alfonso dei Liguori, Santa Rosa da Lima ed altri. Le testimonianze che rimangono non dicono nulla in proposito, ma è certo che nelle cose di pietà fu un ragazzo precoce e corrispose alle premure di sua madre meglio dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Era una delle nature fortunate che sono portate a Dio. Non aveva che 18 mesi ed ogni sera, quando la sua famiglia si riuniva per la preghiera in comune, sapeva da solo inginocchiarsi in mezzo ai suoi e imitando gli altri. Sapeva anche congiungere le sue piccole mani. La pia madre lo metteva poi a riposo e, prima di abbracciarlo per l'ultima volta, si chinava su di lui, gli parlava di Gesù Bambino, della Santa Vergine, del suo buon angelo custode, e il bambino si addormentava cullato dal dolce mormorio della voce materna. Crescendo, fece i suoi primi passi nell'interno della casa o attorno alla stessa, senza però allontanarsi troppo, poiché vi era poco lontano verso il giardino un pozzo dove si abbeveravano gli animali. Così Giovanni Maria era sempre vicino a sua madre, la quale, pur essendo tutta premura per gli affari domestici, non lasciava di istruire il bambino con motti ingenui e similitudini infantili. Da lei imparò con il Pater Noster e l'Ave Maria le prime e più facili nozioni sopra Dio e l'anima, e, bambino sveglio per la sua età, poneva poi mille ingenue domande, soprattutto interessandosi dei dolci misteri della infanzia di Gesù, del Natale, del presepio e dei pastori. Questi semplici trattenimenti alcune sere si prolungavano assai, e per ascoltare i fatti della storia sacra Giovanni Maria vegliava con Caterina, la più pia delle sorelle. Qualche volta si inginocchiava in terra, congiungeva le sue piccole mani e le nascondeva in quelle di sua madre. Durante la bella stagione Matteo Vianney andava al lavoro nei campi assai di buon mattino. Durante il giorno la sposa lo raggiungeva con l'intera famiglia. Caterina e Francesco, il fratello maggiore, con una frusta in mano, la precedevano di qualche passo, cacciando avanti le vacche e le pecore della cascina. Seguiva un asino che portava Giovanni Maria e Margherita, soprannominata Goton. Nel prato i ragazzi si divertivano sull'erba e custodivano il gregge, e Giovanni Maria, sempre allegro e gioviale, sapeva dare vita a ogni gioco. Infatti, egli non era, come insinua il suo primo biografo, uno di quegli strani esseri che nulla posseggono della grazia e della vivacità propria della fanciullezza. In quel ragazzo dagli occhi azzurri, dai capelli bruni, dal colorito scuro e dallo sguardo vivo, la pietà precoce si univa a una certa petulanza naturale. Era nato con un carattere impetuoso. Gli furono necessari lunghi e meritori sforzi per acquistare la perfetta dolcezza, ma fin dai primi anni questo fanciullo sensibile e nervoso seppe comandare a se stesso, e sua madre, di illuminata esperienza, conoscendo l'efficacia dell'esempio, non mancava di proporlo spesso come modello ai suoi fratelli e alle sue sorelle. «Guardate», diceva, quando la loro obbedienza non era pronta, «Giovanni Maria è più obbediente di voi. Fa subito quello che gli si domanda». Il rosario e la piccola statua della Vergine. Ma ecco anche un episodio che fu causa di lacrime. Giovanni Maria aveva una bella corona del rosario che gli era oltremodo cara, e Goton, più giovane di lui di 18 mesi, appena la vide la volle per sé. Ne nacque un litigio tra fratello e sorella con grida, strepiti e lotta. Il povero fanciullo, con vivo rammarico, corse a dire le sue ragioni alla madre. «Bambino mio, dà la tua corona a Goton», risponde ella con voce dolce ma ferma. «Dalla, per amor di Dio». E tosto Giovanni Maria, pur fra i singhiozzi, cede la corona che cambia così di proprietario. Per un ragazzo di 4 anni è già questo un bel sacrificio. Per farlo tacere, la madre, invece di carezze e di complimenti, gli regalò una piccola statua di legno che raffigurava la Santa Vergine. Più volte il fanciullo, con grande desiderio, aveva osservato quella rustica statuetta collocata sul camino di cucina. Ed ora ne era padrone lui, e lui solo. Quanta felicità! A 70 anni di distanza ricorderà questa statua e ripeterà ancora: «Quanto l'amavo! Non potevo separarmene né giorno né notte, e non avrei neppure potuto dormire tranquillo se non l'avessi avuta vicino a me nel mio piccolo letto. La Santa Vergine fu il mio primo amore, l'ho amata ancora prima di conoscerla». Alcuni testimoni dei suoi primi anni, specialmente la sorella Margherita, hanno raccontato che al primo tocco dell'Angelus si inginocchiava prima di tutti gli altri. Lo si vide qualche volta ritirarsi in un cantuccio della casa, collocare su di una sedia la preziosa statuetta e pregare davanti ad essa con perfetto raccoglimento. I piccoli non conoscono quella debolezza che si chiama rispetto umano. In qualunque luogo si trovasse, in casa, in strada, nel giardino, Giovanni Maria benediceva l'ora, cioè, seguendo l'esempio di sua madre, ogni volta che sentiva suonare le ore faceva il segno di croce, recitava l'Ave Maria e quindi ripeteva un nuovo segno di croce. Vedendo ciò, un uomo che lavorava in un giardino di fronte disse a Matteo Vianney: «Credo che il vostro moretto mi prenda per il diavolo». Il padre raccontò l'aneddoto a casa. «Perché hai fatto così?» domandò la madre. «Io non sapevo che quell'uomo mi guardava», rispose Giovanni Maria. «E poi, prima e dopo la preghiera, non si deve fare il segno della croce». Alcuni vicini che sentivano il fanciullo pregare ad alta voce dicevano ai suoi genitori: «Ne sa già di litanie. Del vostro Giovanni Maria bisognerà fare un prete o un frate». Maria Vianney non ha forse intravisto nulla dell'avvenire meraviglioso del suo figlio prediletto, ma la bellezza della sua anima non era per questo meno preziosa ai suoi occhi, ed ella si sforzava di preservarla anche dall'ombra del peccato. «Vedi, mio Giovanni», gli diceva, «se le tue sorelle o i tuoi fratelli offendessero il Signore, ne avrei grande pena, ma la mia pena sarebbe maggiore ancora se lo offendessi tu». In verità il suo Giovanni Maria non era un fanciullo ordinario. Ancor prima di raggiungere l'uso di ragione, questo privilegiato della grazia mosse i primi passi fuori della via comune. Infatti sembra proprio doversi interpretare in questo senso il seguente episodio. Una sera, verso l'età di 4 anni, Giovanni Maria esce di casa senza dire nulla. La mamma si accorge che è sparito, lo chiama, ascolta, nessuna risposta. Cerca con crescente ansietà nel cortile, dietro le cataste di legna e di paglia, introvabile. Proprio lui che risponde sempre alla prima chiamata. Mentre si dirige verso la stalla, dove pensa possa essersi nascosto, d'improvviso un pensiero le attraversa la mente. «Mio Dio, il pozzo profondo e scuro dove si abbevera il bestiame». Ma ecco il piccino in un angolo oscuro, inginocchiato tra 2 animali che ruminano placidamente. Prega con fervore a mani giunte dinanzi alla sua statuetta della Madonna. Maria Vianney prende il figlio tra le braccia e se lo stringe al cuore. «Bambino mio, eri qui», dice scoppiando in lacrime. «Perché ti nascondi quando vuoi pregare? Sai bene che noi le preghiere le diciamo insieme». Ora il bambino non vede altro che il dispiacere causato alla mamma. «Perdonami, non lo sapevo, non lo farò più», risponde con un gemito, lasciandosi cadere fra le braccia della mamma. Davanti all'altare. Ma mentre in quel piccolo villaggio solitario e sconosciuto accadevano queste scene piene di intimità familiare, nella Francia succedevano altri fatti ben diversi e formidabili. Il popolo della campagna, che era male informato o che non riusciva ancora a comprendere, non sembrò molto preoccupato né dal saccheggio di San Lazzaro e dalla presa della Bastiglia, 13 e 14 luglio 1789, né dalle leggi spogliatrici dei beni del clero, 2 novembre, né dall'altra legge che sopprimeva i voti dei religiosi e i monasteri, 13 febbraio 1790. E fu quasi indifferente fino al giorno in cui la Costituzione civile del clero, frutto della rivoluzione, minacciò i suoi preti e i suoi altari, 26 novembre 1790. La signora Vianney, donna di eminente pietà, quando i doveri di famiglia glielo consentivano, partecipava ogni mattina alla Santa Messa, accompagnata dalla figlia maggiore Caterina. Ben presto però la sua compagnia migliore sarà questo bambino di 4 anni, d'una pietà così precoce che già sentiva il bisogno di Dio. Quando la campana della vicina chiesa chiamava alla messa, Giovanni Maria supplicava la madre a prenderlo con sé, ed essa non tardava a cedere alle sue istanze. Inginocchiata nel banco di famiglia, spiegava poi al figlio le diverse cerimonie del sacerdote, e lo sapeva fare con tanta efficacia che il bambino cominciò a gustarle. I suoi sguardi passavano dal celebrante, che trovava tanto bello sotto le sue vesti e disegni, al chierichetto che lo rapiva con la sua cotta bianca sulla veste rossa. Avrebbe voluto anch'egli servire la messa, ma le sue braccia erano troppo deboli per portare il grosso messale. Ogni tanto girava lo sguardo ad osservare sua madre, e per imparare a pregare gli bastava vederla raccolta e quasi trasfigurata da una fiamma interiore. Più tardi, quando qualcuno si feliciterà con lui per avere avuto così presto il gusto della preghiera e dell'altare, egli potrà rispondere con le lacrime della più viva commozione: «Dopo che a Dio lo devo a mia madre, tanto ella era buona». La virtù passa facilmente dal cuore della madre nel cuore dei figli. Un figlio che ha avuto la fortuna di avere una buona madre non dovrebbe mai guardarla né pensare a lei senza commuoversi fino al pianto.